Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E buonasera a tutti. Appuntamento un po' particolare questa sera, dobbiamo dire, sulle frequenze di Blu Radio Veneto con Fabrizio Ruzza, ma non è la solita cosa, dobbiamo dire, eh? Ciao Fabrizio, ciao Maurizio. Buonasera Fabrizio, buonasera Agostino. Abbiamo praticamente estrapolato lo spazio di Fabrizio stasera. Sì, siamo in 300. Siamo in 300, non sono da solo come di consueto ogni lunedì, ma meglio, siamo decisamente ben accompagnati. Non ti ho mai avuto così vicino come stasera. Ah beh, ma basta, non siamo troppo vicini, perché... Allora, Fabrizio, chi abbiamo stasera? Questa sera un appuntamento live imperdibile. Abbiamo quindi volentieri dedicato questo spazio ai Giro di Là, giusto? Alle Giro di Là. Alle, giusto, eh? Sono cinque femmine, cinque donne, cinque ragazze che hanno vinto il concorso 1-2-3 prova che si è concluso il 5 giugno, se non mi ricordo male. Sì, al Teatro Pio X, il 5 giugno, serata memorabile, una performance incredibile, hanno spaccato tutto con questa performance. Anche i tacchi. Anche i tacchi. Dobbiamo ricordare anche a Roberto Baldi che sta curando le telecamere qui vicino. A proposito, vi ringrazio perché non so chi sia stato di voi cinque, avete messo il link di tutta la serata nella vostra bacheca, io l'ho trovato, poi me lo sono fatto mio, quindi c'è tutta la serata. Benvenute a Blu Radio Veneto, ragazze. Grazie. Se parlate poi vicino ai microfoni forse è anche un pochino meglio. Quelli piccolini vicino, quell'altro non serve. Grazie. Ecco, perfetto. Beh, ci possiamo presentare, cosa dice Agostino? Una alla volta. Buonasera a tutti, io sono Veronica, la violinista. Buonasera, Valentina, la chitarrista. Martina, violoncellista. Patrizia, canto e percussioni. Veronica, l'altra cantante. Le percussioni cosa sarebbero? Quelle là rotonde che c'è in mano? No, questa sera ho solo un tipo. Ah, pensavo avessi un caon. Se no abbiamo una sezione Ovetti. Fabrizio, non sono quelle dance, ricordati. Non sono, non quelle sono dance. Quelli David Guetta. No, assolutamente no, Fabrizio. Di cui io sono un grande fan. Purtroppo, sì. Allora, vogliamo spendere due parole su questo gruppo. Chi è che fa da frontman? Beh, che dire... Chi siete? Presentate. Beh, noi siamo Le Giro di Là, per chi non ci conosce, siamo un gruppo tutto al femminile, in acustico. Vi aspettiamo i nostri concerti, perché adesso ne abbiamo in scaletta altri due. Ne abbiamo Dove? Fatti uno venerdì 2 settembre alle ore 10:22 precisamente, in Villa Maldura a Pernumia, provincia di Padova. E poi uno il 17 settembre, l'orario non lo sappiamo ancora bene, da definire. Alla festa della birra a San Cosma, Monselice. E lì cosa fate? E lì faremo un nostro concerto, più o meno quello che faremo anche stasera, pochino, con altre canzoni, perché dobbiamo sempre dare delle novità e suoneremo. Ma spieghiamo un po' cosa fate, come cioè voi praticamente prendete le varie canzoni, sì, fate gli arrangiamenti vostri. Noi siamo un gruppo in acustico, quindi al di là di qualche percussione suonata da Patrizia, ma leggera leggerissima, abbiamo la batteria. E abbiamo una sezione archi, quindi violino e violoncello, che ricreano magari qualche assolo di chitarra elettrica in maniera completamente diversa, e poi due voci femminili che è difficile sentire in un panorama musicale attuale, che armonizzano insieme. E difatti quello che ha sconvolto tutta la giuria, Agostino era in giuria, e noi del pubblico, è il vostro arrangiamento degli archi di un pezzo degli Offspring. Quello è il bello, è stato straordinario secondo me, arrivare a un pezzo punk, perché letteralmente gli Offspring, vero Fabrizio, sei d'accordo che è un pezzo, sono punk, certo, gli Offspring, certo. Ecco bene. Fabrizio ha praticamente consentito. Al di là del vetro. Al di là del vetro. Ok, allora sono punk. Allora sono punk. E avete fatto in versione con gli archi, una cosa splendida secondo me. A me è piaciuto moltissimo, e anche chiaramente alla giuria, visto che vi ha premiato. Sì, devo confessarvi che più di qualcuno forse non si aspettava questo modo di fare l'arrangiamento. e quindi trovarsi davanti a questa diversità, tra virgolette, passatemi l'espressione, di canzone arrangiata con i vostri strumenti è stato veramente un qualcosa di strano, di nuovo soprattutto, e ha fatto quindi una rivisitazione. Una rivisitazione, io credo che ce la faranno subito come prima canzone, magari, o no? Di solito, come volete voi. No, qual è la vostra scaletta stasera? Beh, noi iniziamo di solito con un pezzo strumentale dei Queen. Benissimo, perfetto. Iniziamo con quello allora. Vogliamo cominciare subito? Cosa dici, Maurizio? Sì, cominciamo subito, siamo già in ritardo, per colpa mia, sono arrivato tardi io come sempre. Adesso cominciamo subito, fino alle 22:30, lo spettacolo è per voi praticamente. Con i Queen praticamente. Con i Queen, certo. Dato un... Siamo un po' subito momento potenza. di energia. Diamo subito potenza alla serata. E... se dite, continuiamo, facciamo... No, adesso parliamo di come lo gestite il concerto. Qui inizia. Ma l'idea di fare i Queen, come iniziare il concerto, da chi è nata? Ma volevamo partire con qualcosa di energico, come avete detto, di grintoso, appunto per dare un tono, per scaldare serata, l'ambiente. Esatto, per scaldare l'ambiente. E l'idea era di fare qualcosa un po' di flamenco così. E quindi una serata, parlando in un baretto, ci è venuto in mente, a Valentina esattamente, di introdurre il concerto con i Queen. Per questo spezzone. Questo momento praticamente... Sì, per spiazzare anche un po' il pubblico, certo. No? Nel senso che magari si aspettano la classica scaletta, no? Iniziamo a cantare, invece no, gli strumenti si fanno subito sentire, e quindi la potenza del violoncello, del violino, che insomma spacca, assolutamente, tiriamo ancora il nostro mulino, e poi da lì iniziamo con la nostra scaletta normale, quindi con canzoni in inglese e in italiano. La scaletta che decidiamo... un'ora prima, come Bob Dylan praticamente, decidete sempre un'ora prima. Certo. Fabrizio, cosa dici tu che fai parte dell'ambiente dance in questo momento, questa scaletta che inizia con i Queen? Direi che è decisamente una bella scossa iniziale che sicuramente viene a catturare la curiosità del pubblico, una scarica di energia, di adrenalina che sicuramente ci vuole. Indubbiamente, cosa dice Agostino? Beh, insomma, loro sono già svezzati in questo senso, quindi credo sia la soluzione migliore per attirare l'attenzione. Sì, hanno dato una carica di adrenalina, esatto, anche al pubblico, sì. Ben compreso quando avete fatto gli sprint. Sì, come dicevo prima, hanno veramente colpito proprio per questo modo loro di arrangiare le canzoni. Come si svolge poi il vostro concerto? Fate tutti i pezzi rock o ballate? Vario genere, direi, non siamo solo su una tipologia di canzone, e quindi, come ha detto Veronica, facciamo pezzi sia in italiano sia in inglese. Stasera faremo anche un pezzo nostro che avevamo già fatto. Ecco, a noi interessa proprio sapere questo: avete già qualcosa di vostro pronto oltre al pezzo di stasera? C'è qualche idea per fare qualcosa? Sì, c'è qualche idea per fare dell'altro. Adesso a settembre, come tutti, ci si rimette a lavorare, quindi insomma ci rimetteremo a lavorare. Esatto. Avete voglia di fare un disco vostro? Tutto? Magari sarebbe insomma un obiettivo, sicuramente, esatto. Una meta. Avete già qualcosa di base? Stiamo finendo di registrare una demo. Quanti pezzi? Di 5 pezzi. Due inediti, quindi nostri, e 3 cover. Quindi siamo proprio nella fase di mixaggio, infatti a breve dovremo finirlo, abbiamo iniziato un annetto fa quasi, però appunto per curarlo poi anche con l'inserimento degli altri due componenti del gruppo volevamo anche inserire loro, quindi ci abbiamo messo un po' più di tempo, ma speriamo insomma che il prodotto finale venga veramente esclusivo, qualcosa di qualità. Quindi stiamo aspettando insomma di finire questo progetto e anche in modo anche da magari portarlo in giro. Insomma. Anche qua per esempio? Certo, sarete i primi. Ecco, per minimo. Ci sarà questa anteprima in esclusiva sicuramente su Radio Veneto. Bene, grazie. La formazione resterà questa? Speriamo proprio di sì. No, a meno che non ci siano sconvolgimenti vari. O manca sempre il mitico Fabio. Mitico Fabio è sempre nei nostri cuori. Ma Fabio che il ruolo aveva come musicista? Bassista. Te lo ricordi, Maurizio, quando sono venuti? Sì, me lo ricordo, sì, esattamente. A parte che quella sera ci hanno regalato anche dei momenti a cappella splendidi. Potete farne uno adesso, dai? Ce la fate? Adesso? In questo momento, perché Blue Radio Sera o Rockaway si sconvolge sempre le scalette già predisposte. Noi siamo fatti così. Quello che vuoi tu. Quello che volete voi. Hit the road. Ok. Voi fate gli strumenti con la voce. Sì, sì, è tutto dal vivo, tutto ragazzi. Da... Tutto dal vivo, Ok, vai. Tutto dal vivo. Vai pure. Possiamo alzare in piedi? Certo. Potete alzarvi, certamente. Siamo un po' accampati stasera, ma è splendido. Se avete le telecamere accese, le webcam, potete vedere queste cinque ragazze nel giro di là che stanno facendoci questo regalo, questa serata in acustico. Quindi hanno invaso la nostra stanza e sono simpaticissime. Poi, tra l'altro, insomma, oltre che molto, molto bravi. Allora, siete pronte? Sì. Ok. Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Home, home, home. Dreaming so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. Well, I guess if you say so, I have to pack my fin and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I've traveled the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I've traveled the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Blu Radio Sera. Mi dico una cosetta. Blu Radio Sera. Fa sempre un certo effetto sentirle cantare. Indubbiamente. Poi una cosa che non ho mai visto, è la prima volta, anche te lo dico anche a te Fabrizio, è bello spulciare nel pentagramma della Veronica. Ho spulciato proprio le note, tutto là davanti. Cosa ci sono? C'è scritto tutto, c'è scritto come si... Appunti fondamentali. Lei è precisa. Lei è precisa, allora, praticamente. Come mai con questo swing? L'avete sulle corde lo swing, visto che avete fatto un pezzo swing? No. Ci piaceva la canzone da lì abbiamo anche attaccato questo pezzo di Sweet Dream. Degli Eurythmics. Sì, avete fatto un abbiamo fatto un mashup, sì. E ci è piaciuto perché appunto il ritmo è praticamente il medesimo ed è facile da attaccare praticamente subito. E niente, insomma, anche bello questa esplosione che poi ritorna subito bello pacato come abbiamo fatto nella prima strofa. E niente, poi abbiamo appunto resa un po' nostra questa canzone facendo questa particolarità, rendendola un po' più diversa, ecco. Ci piace mixare varie canzoni. A proposito di mixare, Fabrizio, tu che sei un esperto di mixaggio. Sì, ma non devi... Cioè, quando tocchi questa vena con me, fai scaturire veramente il sangue nelle vene. Ma parliamo di mixaggio in ambito dance, sai com'è? Purtroppo. Di cui sono un ampio esperto ed estimatore, no? Sì, ma le ragazze hanno fatto un'ottima versione di questo pezzo famoso. Cioè, questo mettere assieme gli Eurythmics e questo hit fondamentale della musica tra virgolette, la grande musica. Sì, sì, certo. Come è nata questa idea, praticamente? Ma in realtà l'abbiamo un po' scopiazzata, nel senso che ci piace andare in giro in vari locali per sentire altre formazioni acustiche, insomma, per avere un po' un confronto, giusto per non restare nel nostro piccolino. E così in una serata acustica, non so, mi ricordo neanche io bene, c'erano due chitarristi e un cantante, e abbiamo sentito che avevano fatto questa cosa, e ho detto, beh, ci proviamo anche noi, non è uguale identico, perché ovviamente abbiamo fatto con l'armonizzazione, abbiamo fatto insomma appunto nelle nostre corde questa canzone, e niente, così è nata, ecco. Ricordiamo intanto che prima abbiamo cominciato subito perché avevamo voglia di sentirvi, ma ricordiamo le frequenze di questa emittente, cioè 88.700-94.600 MHz in modulazione di frequenza. Vi ricordo anche i nostri numeri telefonici, cioè se volete chiamare qui. O messaggiare. Allora, quello in studio è lo 049-875-6423, mentre per quanto riguarda gli sms... 346-23-20-033. Benissimo, questo è Blu Radio Veneto. Vi ricordo il nostro sito www.bluradioveneto.it, le nostre pagine Facebook sono due, uno semplicemente Blu Radio Veneto, l'altro invece è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita dal nostro direttore artistico, che vi ricordo è Alberto Prisco. Quindi che abbiamo, salutiamo chiaramente. Abbiamo dato tutte le coordinate del navigante, come dico sempre. Esatto. Giusto per non perdersi nella navigazione. Bravissimo. E adesso li ascoltiamo, adesso ascoltiamo qualcosa di vostro. Cosa ci fate ascoltare? E vi facciamo sentire una canzone grintosa, irlandese. Bella. Galway Girl. Ah, bene. Steve Earley. Ah, beh, wow. Mitica questa. Una delle canzoni che si sentono nei negozi di Dublino. Ma siete state recentemente a Dublino, allora? Io sono stata a Dublino l'anno scorso. Ah, benissimo. Allora ti sei... Ma la facevamo già. Ah, quindi. Quindi sono stata solamente orgogliosa di... Ok. Gli applausi ci stanno, ma ve li facciamo dopo. Facciamoli noi. Non c'è mica nessun problema. Io, se devo essere sincero, mi fa un certo effetto sentire nel contorno di questa vostra esibizione il violino. Cioè, dà una sensazione bellissima. Complimenti, perché sei bravissima, si sente benissimo il violino, dà un tocco quasi, quasi romantico alla cosa, insomma. Avete creato veramente un ensemble molto bello, cioè fra violino, chitarra e contrabbasso e più le due voci. E le violoncello, il violoncello, chiedo scusa. Maurizio. C'era una specie di giga, perché non avete mica ballato? Tu hai cominciato a ballare un pochettino, è una specie di giga, sicuramente è una giga. Come l'hai sentita in Irlanda, spesso e volentieri avevi detto quando sei stata in Irlanda. Sì, sì, sì, è una delle canzoni tipiche irlandesi, proprio popolare. È stata la colonna sonora di un film, PS I Love You, l'abbiamo sentita lì e l'abbiamo riarrangiata. A vostro piacimento. Sì, come si fa a riarrangiare un pezzo del Giro di Dan? Beh, parte tutto, facciamo a fasi. Prima fase... Le Giro di là si ritrovano in stanzetta prove e portano dei brani, ognuna ne porta uno. Dovrebbero fare. Seconda fase. Le Giro di là si scannano per la scelta del brano. Io stavo cercando di trovare le parole giuste, lei ha usato la migliore. No, sì, scherzo. No, cerchiamo di scegliere quella che ci piace di più. Terza fase, una volta scaricati o trovati gli accordi, molte volte, perché arriviamo lì, vabbè, la facciamo e lì troviamo noi gli accordi. Martina ha una capacità stratosferica, se metti lì in 2 secondi ha trovato gli accordi della canzone, la tonalità, diciamo, bene, per le mie capacità, che purtroppo sono quella un po' più scarna a livello musicale, no dai, cerchiamo un po' il ritmo, quindi un ritmo nostro sicuramente, magari... Non so se avete ben presente il country, questa canzone che facciamo noi non è proprio è un vero country, è riarrangiata. E poi violino e violoncello cercano di ricreare quello che magari nella base originale faceva un'altra chitarra o un basso o lo stesso violino, però in maniera nostra. Quindi fondamentalmente siete rockettari, sì, anche voi. Sì, se una sola non ci piace all'interno della canzone lo cambiamo. Ci prendiamo questa licenza ci facciamo qualche modifica. Quindi, ripeto, fondamentalmente siete rockettari anche voi praticamente. Sì, sì. Esattamente. Beh, io sì. Loro, le altre? Cuore rock. Dimmi Fabrizio. Che ognuno ha il proprio cuore, giusto? Certo. Esatto. Lo so dove vorresti parare, ti lo so. Sul mio cuore denso. lo so che arrivi sempre là. Io sono un po' deviato nella brutta strada, lo sai. Sì, ma stasera abbiamo il Giro dei Là, quindi... Non sono redimibile. Sì. Beh, stasera forse un po' sei, lo sai, sì. Con la musica loro, direi ti hanno un po', sì, un po' trasportato un po' lontano dalla tua fase musicale. Poi okay. Sicuramente cerchiamo di non emulare la canzone, quindi non ascoltare troppe volte quella originale per non farla identica. Beh, mi pare giusto quindi così. Quindi si ascolta una volta giusto per sentirla un attimo tutte, una o due volte e poi basta. Bene. Poi nasce e cresce nella sala prove nostra, fra di noi. Ma vi trovate quante volte nella sala prove durante la settimana? Talmente tante che ci stanchiamo quasi di vederci. Non è vero. No, in realtà... Cioè, siamo delle ragazze molto impegnate e il fatto di suonare è una passione molto forte per tutti, è un divertimento e purtroppo riusciamo a vederci poco. Diciamo che le nostre prove sono i concerti, se possiamo definirlo così. Però durante l'inverno, quando c'è il rinnovo del repertorio, ci troviamo molto frequentemente. Sì, beh, quello sì. Una, anche due volte a settimana, se capita, prima dei concerti, quindi... E poi da quando cominciamo a fare i concerti fuori, quindi rodiamo un po' il repertorio, poi ci permettiamo anche il lusso di non provare più, perché è anche una prova anche per noi, però abbiamo fatto un concerto sabato a Calaone, sui Colli Euganei, è andato molto bene, eravamo molto cariche, abbiamo riempito il locale, è stata una bella serata per tutti. Sì, certo. A Veronica ha parlato pochissimo, facciamo parlare anche lei, Veronica. Certo. Parliamo del violino, no. tu prima... E Agostino ha citato il violino, questo strumento meraviglioso. Che funzione ha il violino nel quintetto vostro praticamente? Beh, un po' fondamentale, diciamo, fa un po' certe volte da terza voce. Si alterna tra terza voce e accompagnamento. Può essere anche per assoli, assolo con violoncello oppure violino. Quindi alla fine c'è uno strumento melodico, quindi non è che posso sempre fare la funzione armonica, quella c'era molto spesso la Martina. Che è il violoncello. Certo, sono più funzione melodica io. Potresti farci una solo adesso, no? Quello lo facciamo sentire all'interno di una canzone. Va bene, va bene. Bene, bene, bene. L'ho salvata. Ho visto il Valentina. No, se vi va. Se vi va. Sì, no, come no, certo. C'è una bellissima canzone. Partiamo subito con la che ve la riproponiamo di Paola Turci, Bambino. Bella, sì. E lì Veronica gioca bene il suo ruolo di violinista. Ok. Crescerò e sarò un po' più uomo ancora, un'altra guerra mi cullerà. Crescerò, combatterò questa paura che ora mi libera. Milioni sono i bambini stanchi e soli in una notte di macchine. Milioni tirano bombe a mano ai loro cuori, ma senza piangere. Sanno tutto dell'amore che si prende e non si dà. Sanno vendere il silenzio, il male, la loro poca libertà. Vendono polvere bianca i nostri anni alla pietà. In un barattolo è rinchiuso un seme come una bibita. Lo sai che ogni tua lacrima futura non ha prezzo come la musica. Io non so quale bambino questa sera aprirà ferite immagini. Aprirà le porte chiuse di una frontiera in questa terra di uomini. Oh bambino, qual è la piazza Buenos Aires dove tradirono tuo padre, il suo passato assassinato, desaparecido. Ragazzini corrono sui muri neri di città. Sanno tutto dell'amore che si prende e non si dà. Sanno vendere il silenzio, il male, la loro poca libertà. Vendono polvere bianca i nostri anni alla pietà. Bambini, bambini. Bambino armato e disarmato in una foto senza felicità, sfogliato e impaginato in questa vita sola che ci sorriderà. Ragazzini corrono sui muri neri di città, sanno tutto dell'amore che non si dà. Vendere il silenzio, il male, la loro poca libertà. Vendono polvere bianca i nostri anni alla pietà. Bambini, bambini. Non ho parole. Fabrizio, anche tu non hai parole come me. Non ho parole. Difatti. Bellissimo. Dobbiamo sottolineare una cosa. Questo è un pezzo molto difficile di Paola Turci, non è un pezzo semplice, è un pezzo abbastanza complicato, e farlo in 5 non è molto semplice, molto facile. Siete state molto brave, bisogna dirlo. Un testo pesante, un pezzo testo importante. Sicuramente da interpretare, da ma eseguire. L'hanno fatto veramente splendidamente, sì, cioè anche l'arrangiamento che ci hanno fatto veramente molto dal bello. Vivo, credo, cioè nel senso con un bel palco davanti, quindi le casse che che diffondono. Dobbiamo essere sinceri, abbiamo sentito questa versione in un DVD, Amiche per l'Abruzzo, quel concerto che hanno fatto. E avevano fatto quasi una solo simile con il violino, non c'era il violoncello sicuramente, c'era Paola Turci che suonava la chitarra acustica, Marina Rei alle percussioni con una batteria molto ma molto bella, io ammiro molto, cioè mi piace molto Marina Rei quando suona la batteria. Fondamentalmente lei è una batterista. Sì, esatto, perché anche il padre è esattamente, batterista. Esattamente, proprio così. E poi l'abbiamo adattata a noi, insomma, l'abbiamo sempre fatta a modo giro di là. Possiamo fare modo giro di là. L'ispirazione poi viene adattata. Sì, esatto. È una grande canzone comunque, insomma, personalmente posso parlo anche a nome delle altre. Certo. Poi una cosa che avete, la vostra caratteristica è il violoncello. Il violoncello dà un certo... Io l'ho detto più di una volta quando ci siamo trovati all'epoca, quando siete venuti qua per l'intervista. Ha un andamento molto dark il violoncello, secondo me. Quello dà un peso alle cose, a mio parere. Cosa dici? Beh, io non sono molto, molto dark. Ma nel senso negativo, però, sì, sì, no, ho capito nel senso, sì, sì. Decadente, possiamo dire così. Beh, mi piace sentire questo commento. È originale, non l'ho mai sentito. Grazie. E comunque, sì, io cerco di fare soprattutto il basso armonico, quindi di sostenere con gli accordi. E ogni tanto mi arrischio a fare qualcosa nelle ottave, nel timbro più alto, però spesso e volentieri vado a in conflitto con Veronica, quindi me ne ritorno nelle mie profondità. E quindi è molto dark, per quello sì. Ecco, per quello... Bellissima quella canzone, veramente mi è piaciuta tantissimo. Grazie. È bello scoprirvi in altre vesti, al di fuori quelle degli Offsprings. La facciamo ormai per ultima. Sì, ormai no, sì, quella è la bomba finale. È la bomba, giusto Fabrizio, è la bomba finale. Allora, giro di là, da dove deriva questo nome? Chi l'ha scelto? Cosa c'è? Una motivazione? C'è un qualcosa? Allora, facciamo a pezzetti. Allora, io inizio dicendo che giro di là l'abbiamo scelto. No, giro di là, intanto volevamo un nome in italiano, giusto? Esatto. Perché tante volte le band, anche giovanili, no, hanno questa tendenza di darsi un nome. Soprattutto le band giovanili hanno ormai sì. Nome in inglese. Tutti in nome in inglese, quindi anche per essere più attaccati al nostro territorio, ho detto bene, no, lo scegliamo in italiano, scegliamo un nome che possa essere anche un po' ambiguo, perché quindi giro di là con diversi motivi che adesso Patrizia ci spiega. Beh, giro di là sicuramente per più sensi, noi siamo più sensi anche come preferenze musicali, come generi scelti, quindi giro di là perché ci piace esplorare vari generi sicuramente. Poi giro di là perché ci piace cambiare, quindi si gira di qua, si gira di là, si prova. E giro di là anche perché, diciamo, il pezzo con cui è nata un po' l'idea di provare a fare un gruppo tra noi, a io, questo. Valentina, Veronica e Fabio, famoso. Mitico Fabio. Che ci sta ascoltando, quindi lo salutiamo. Ciao Fabio. Una volta ce lo portate qua. Va bene. Se non altro per dirgli quanta pazienza porta. Esatto. Ciao Fabio. Quindi sì, praticamente il giro di là è nato così per scherzo. Parla ridendo. Vicino al microfono per cortesia, sì, grazie. Scusa, ridendo un po', sempre con lo stesso giro di accordi, quindi in là, ci divertivamo a fare canzoni di vari artisti e anche sovrapposte una con l'altra. Ci e divertivamo quindi, anche un po' a prenderli in giro a volte. Sì, a prendere in giro gli non artisti. Non ce ne vogliano però, dai. Che sullo stesso giro di accordi fanno un sacco di canzoni. E quindi niente, giro di là anche per parli questo. Parli di Zucchero per caso? Zucchero, no, parliamo Ligabue, di... Sì, di tutti, che per due Mica. Anni di fila Sanremo è stato vinto con una canzone in La Maggiore, quindi... Non tendiamo, ho capito, scusami. Tendiamo che noi di... la frase che hai detto è... No, che Sanremo, sì. Il nostro... Ben amato. Per fortuna o purtroppo, la nostra finestra della canzone italiana per due anni di fila è stata vinta da... due canzoni, la tonalità era la stessa. Qua posso essere criticata perché le note sono sette, le tonalità sono sempre quelle, però diciamo che l'arrangiamento fa era una molto canzone speciale, e forse due canzoni così simili non erano poi così tanto speciali. Ecco. Questo è come cercare il pelo nell'uovo, sai Maurizio? lo so. I musicisti sono sempre così, no? Mentre il pubblico, diciamo, la massa, ascolta, ah, senti che bella questa melodia. Ma si accorge magari, scivola via. Invece loro che ci sono dentro, che ma sa... noi dobbiamo trovare il pelo nell'uovo. No, se no... Poi noi radio proponiamo, facciamo le nostre playlist, inseriamo... Ci facciamo anche guidare ovviamente dai gusti degli ascoltatori che richiedono o mandano gli sms. Beh, certo. Quindi... beh, insomma, le radio funzionano anche per esatto. Questo, per dare spazio agli ascoltatori. È che... il pubblico che molte volte, anzi, dovrebbe determinare quelle che sono le proposte, poi ovviamente noi facciamo le nostre. Certo. Beh, non sai che la musica, ognuno esatto. Ha i suoi gusti, quindi esatto. Insomma. Giusto? Esatto. D'accordissimo. Le gustibus. Esatto. Io so che Veronica, per esempio, ama John Baez. Giusto? Valentina, sì, sì, sì. Ah, scusa, Valentina. John Baez. Un flash di Faraway Angelina, Valentina. Ma Veronica. Io non la canto. La sai suonare. La sai suonare, sì. Okay. L'accordo. Are being stolen by bandits, I must follow the sound. The triangle tingle and the trumpet plays low. But for what, Angelina, si minore, for what, Angelina, the sky is on fire and I must go. Beh, era tutto improvvisato, dobbiamo tenere conto. E questo era un pezzo mica semplice, anche questo. Tutti cioè i pezzi Dylan non sono molto semplici, cosa dici? Sembrano semplici, ma non è proprio così. Semplici. Questa è la scritta proprio Bob Dylan. È la scritta per lei, sì, proprio per lei. Esatto. Davanti al microfono, grazie. Ah sì, scusate. Non siamo abituati. No, non siamo abituati. Ma dovete abituarvi, saranno altre radio che vi ospiteranno sicuramente. Speriamo. Ecco appunto, quello lì. L'augurio assolutamente. Credo che siete ascoltate anche in Sicilia in questo momento, eh? Ah sì. Sì, perché sono gli amici di Radio Alcamo che a volte si collegano. Okay. Allora gli facciamo sentire subito una grande donna della Catania, cioè, che abbiamo nel repertorio. Va bene. Mi sono agganciata subito. Hai fatto benissimo. Come si chiama la canzone? Fiori d'arancio di Carmen Consoli. Ok. Aveva uno sguardo intenso e diretto, le dita curate, un sarcasmo congenito, labbra sottili, armonioso contorno di denti bianchi e perfetti. Poche parole, eleganza nei modi e una lieve cadenza d'un talme e dominio di sé. Vennero assidui e frequenti nei luoghi e agli orari più insoliti. Quell'uomo intrigante teneva le redini con singolare destrezza. Pochi preamboli quando mi chiese: vorresti sposarmi? Era onesto e sicuro di sé. Ricordo il giorno del mio matrimonio, la chiesa gremita di gente annoiata per l'interminabile attesa. Alle mie spalle sbadiglie e commenti, e di lui neanche l'ombra lontana. Pochi preamboli quando mi chiese: vorresti sposare? sicuro di sé. Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'amico bianco di seta e d'organza, nessuno sposo e paziente all'altare, soltanto un prete in vistoso imbarazzo. Ricordo il giorno del mio matrimonio, cordoglio. Quanta grinta! Che grinta, ragazze! Avete praticamente fatto esplodere il Carmen Consoli. Cosa dici, Fabrizio? Una grandissima esplosione, Maurizio, non c'è che dire. Veramente? Una carica intensissima, un pathos veramente significativo. Bravo, veramente. Wow, che grazie. Cosa c'è? mi sembri un presidente Mi ha colpito il pathos che hanno trasmesso, Ma loro sono sempre così, sai. Abbiamo già avuto modo di scoprirle, vero Maurizio? Certo che il pezzo di Carmen Consoli era già potente di per sé, l'avete proprio sviscerato in maniera dei modi, assolutamente. Sì, sicuramente è un pezzo dove ci vuole rabbia, ci vuole grinta anche nell'interpretarlo. Lei era una notevolissima artista, è sempre stata... una che è andata avanti sempre per la sua strada senza nessun problema. Sì, sicuramente è una grande cantautrice italiana. Esattamente. Vinto anche parecchi premi proprio come scrittura di testi. È vero, esattamente. Ha dei testi veramente fenomenali, secondo me. Certo, forti in ogni caso, molto forti. Se volete vedere questa esibizione live tramite le webcam, vi ricordo, il sito è diretta@rockwave.tk, accederete direttamente alla visione di queste cinque ragazze che sono alle giro di là, che sono appunto quelle che hanno vinto il concorso 1-2-3 prova di giugno, insomma, organizzato Noi Associazione. Allora, questa era Carmen Consoli, adesso? Adesso cosa dici? Facciamo riposare un secondo, facciamo il nostro giochino. Cosa dici, Agostino? Sei d'accordo? Va benissimo, se loro sono d'accordo, vogliono suonare, chiedi a loro. Volete suonare o volete riposarvi due come minuti? Come volete voi. Allora suoniamo, vi riposate. Ci calmiamo un po' con un pezzo più romantico di quello di Carmen Consoli, Stand By Me. Ah, bello. Bellissima. Tutto dal vivo, tutto dal vivo, 21:47. Pronti? anche John Lennon vi avrebbe apprezzato sicuramente. Stand by Me versione con gli archi, bellissima Maurizio, parla anche tu vicino al microfono. Sono molto romantici, quindi un tocco di dolcezza. Hai ragione Fabrizio, un tocco di dolcezza che serve alle 21:50, può far piacere. Vi ricordo sempre i nostri numeri telefonici che non dobbiamo mai dimenticare, perché insomma se qualcuno vuole contattarci, comunicare con il Giro di Là o anche con noi, insomma per un semplice saluto, vi ricordo lo 049 875 6423, mentre gli sms, Fabrizio. 346 23 20 033. Quindi le coordinate le abbiamo ridette, perché non bisogna disperdersi. Siamo in streaming audio, streaming video, con diretta rockwave.tk per il nostro sito per vedere le webcam, con la gestione di Roberto Baldi che ci sta dando una mano alle webcam. Siamo in tantissimi stasera, abbiamo occupato metà radio praticamente, logisticamente parlando, ovviamente. Siamo pieni, veramente pieni di gente, siamo tutti rigorosamente dal vivo, sono le 21:51 di questo lunedì 29 agosto, ormai siamo in chiusura di questo mese, e Blu Radio Veneto vi offre sempre qualcosa di nuovo, e soprattutto di acustico, di bello, di bellezza, insomma, in fatto di musica. Questa sera tocca al Giro di Là, che sono quelle che dicevo prima, hanno vinto il concorso 1-2-3 prova. Ci stanno riproponendo il loro, diciamo, repertorio concertistico, si può dire una cosa così? Sì. Ragazzi, si può me dire passate? Il repertorio concertistico. Va bene Agostino. Se qualcuno invece vi vuole contattare a voi per fare qualche concerto, per chiamarvi, anche perché magari qualche produttore che vi sta ascoltando che vorrebbe avere perché quel gesto lì? Pieno. Mi raccomando, chiamate nelle ore pasti, perché siamo molto impegnati. Beh, durante il giorno, sì, non so se abbiamo tempo. No, stiamo scherzando. A parte gli scherzi, abbiamo una pagina Facebook, Giro di Là, senza accento, ho scoperto. Sì, Facebook principalmente, oppure attraverso i nostri profili, sempre Facebook, rispettivamente di ogni componente, ecco. E il numero di telefono, un po' troppo darlo. Quello dello studio, ecco. Ah, ecco, avete, sì, certo. Avete il vostro sito? No, non ancora. Lo state costruendo. Siamo molto... Diciamo che noi per trovare i concerti noi andiamo nel locale, beviamo una cosa, ci avviciniamo con molta nonchalance e diciamo: no, ma senti, ma ti interessano cinque ragazze che suonano? E allora là subito si attizzano le orecchie e dopo, insomma, il successo è sempre servito. Insomma, tutti i posti in cui siamo andati a suonare, il successo che abbiamo riscontrato nei confronti di pubblico e anche di chi ci ospita è sempre molto apprezzato, insomma, quindi abbiamo un buon riscontro. Anche perché è un po' una novità quando presentiamo il gruppo, magari molte volte fraintendono acustico per noioso, perché non c'è la batteria, non c'è la chitarra elettrica, che quando ci scoprono magari colgono un lato cioè del genere acustico, che non è solo noioso o solo lento o melodrammatico, ma può avere varie sfaccettature, e come abbiamo sentito prima ci impegniamo a dare quel che di rock alle nostre canzoni, alle canzoni che facciamo, e quindi c'è parecchio stupore. Sì, gli archi è già uno stupore, non è esatto. Semplice trovare gli archi in un gruppo di cinque persone. La prima cosa di cui uno si stupisce è cinque donne, cinque. Anche le donne che vanno d'accordo, che riescono a creare qualcosa, no. La rivoluzione del mondo. Esatto. Quanto dura il vostro concerto? Beh, dipende. Un'ora e mezza, se il locale lo vuole, due orette, magari ci impegniamo a fare anche due orette. Anche voi uscite dalla scena, poi ritornate. Perché... No, di solito certo. Chiudiamo quando finalmente abbiamo... No, finalmente, siamo un po' stanche. Dopo un'ora e mezza di concerto ci diamo abbastanza dentro con l'entusiasmo e la carica. E dopo un'ora e mezza noi chiudiamo con il nostro Giro di Là, che poi vi faremo sentire verso la fine. Abbiamo ancora tempo, ragazzi, ancora ecco, mezz'ora. Ci chiedono il bis, allora di... Anche noi vi chiediamo il bis. Quella che va per la maggiore sono gli Offspring di solito. Beh, insomma, quella che vi ha portato fortuna, sì, anche. Esatto. Insomma, quindi che vi ha... Però poi in 30 secondi la voglio risentire, quella di Paola Turci. Va bene. Mi è piaciuta veramente tantissimo. Me la fate subito così, dai, sì. 30 secondi. Siamo gli Offspring. No, vuole Paola Turci. Una reprise di Paola Turci. In 30 secondi. Mi è piaciuto veramente tantissimo quel pezzo. Il ritornello, fai il ritornello al limite. Sì, la parte finale. La parte finale. Quello volete voi? Quale? Bambino. Bambini, no, sì. Ma anche ritornello. Facciamo quello che volete. È tutto dal vivo, anche la scelta della pagina. Esatto. È tutto dal vivo. L'ultimo. Non siamo l'ultimo. Esatto, Fabrizio, okay. Hai ragione. Gli ultimi due ritornelli. Gli ultimi due, ok. Ma vuoi, cioè, che inizi con... Oh, no, aspetta. Sì. No. Si stanno accordando, sentite questo. No, dimmi le parole. Che no, bello, inizi sentite. Tu. Bambino armato e disarmato. Ok. Bambino armato e disarmato. In una foto senza felicità. Per quelli da casa che ci stanno sentendo. In questa vita sola che ci sorride. Ah, ma queste sono dietro le quinte, mi pare giusto. Qui siamo dietro le quinte, dove... Il vero live. È vero, hai ragione. Oh bambino, armato e disarmato in una foto senza felicità, sfogliato e impaginato in questa vita sola che ci sorriderà. Ragazzini corrono sui muri neri di città, sanno tutto della e non si dà. Sanno vendere il silenzio, il male, la loro poca libertà. Vendono polvere bianca ai nostri anni e alla pietà. Bambini, bambini, ah. Che meraviglia. È la diretta, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Mi ero abbastanza preparata psicologicamente. Bellissima, veramente bellissima. Questa è una canzone da sentire, come dicevo prima, con le casse acustiche potenti. Chiamiamo Paola, invitiamo Paola Tucci. E di Paola Tucci fate anche Chiamami Luca? No, quella non vi piace. Forse no, ma cerchiamo di non fossilizzarci, cioè nel senso fare un artista, non so, una canzone a testa, insomma, perché dopo non ci scambiano per cover band. No, assolutamente band, no. Non vogliamo assolutamente. Lei ha fatto la cover, ha ripreso un pezzo di Susan Vega, l'ha lanciata in Italia. Sì, ma abbiamo lasciato stare. Hai fatto bene, benissimo. Allora, li facciamo sentire. Quello che volete. Abbiamo deciso di non farvi le domandine dei due dischi da portare su un'isola deserta, perché abbiamo poco tempo. L'avete già fatta. Dimmi. Ce l'avevate già e lo so, quindi non la facciamo più e andiamo avanti con quel live. Beatles. Cosa di Beatles? I've just seen a face. Ah, va bene, ok. Quando siete pronte me lo dite che noi... con una certa potenza il libro deve essere fatto. Ok. Just in a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we met. Nine, nine, nine, nine, nine. Had it been another day, I might have looked the other way, and I have never been aware. But as it is, all dream of it tonight. Nine, nine, nine, nine, nine, nine. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. I never know the likes of this. I've been alone and I am Mr. Fins, kept outside for other girls. We never quite like this. Nine, nine, nine, nine, nine, nine. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Calling me back again. Maurizio, te che piacciono i Beatles? I Beatles hanno molto spesso e volentieri usato gli archi e quindi mi pare giusto un omaggio ai Beatles usando gli archi. Certo. Bellissimo. Cosa ne dici, Fabrizio? Dove sei, Fabrizio? Questa... Ah, ma non mi vedi perché... Il vetro è un po' stretto, no? No, ma se mi muovo giustamente Roberto mi dà le botte perché praticamente offusco le telecamere. Sì, perché mi metto siamo in due studi, quindi c'è questo vetro un po' stretto e quando ci si sposta verso l'angolo mi scompare dalla vista. Meglio così. Meglio così. Beh, è stata una cosa molto bella secondo me. Io sapevo che era positivo la vostra entrata qua dentro, gli archi, però è superato ogni rosea aspettativa secondo me. Cosa dici, Agostino? Sì, beh, io sinceramente mi emoziono sempre a sentirle perché già da quella famosa serata che avevano colpito, insomma. Poi sentirle dal vivo, avevamo avuto modo di sentirle a cappella l'altra volta che sono venute qui a cantare la canzone. E poi sentire dal vivo così, quasi quasi ero sicuro che davano emozioni, che regalavano emozioni. Quindi credo che, come ho detto e ripeto per l'ennesima volta, credo che dal vivo, cioè durante un loro concerto, siano veramente splendide da vedere e da sentire. Perché ci danno, secondo il mio punto di vista, molta ma molta anima mentre suonano. E credo sia la base per chi fa musica, soprattutto entrare nelle canzoni. Vedere per esempio Valentina che si chiude gli occhi e si... tu non ti vedi, ma io sì. Dico Valentina, ma potrebbe essere anche te o anche lei, anche coloro quando cantano. Insomma, cioè voglio dire, quando si mette l'anima in quello che si fa, credo che le cose siano sempre comunque belle. Poi Valentina ha detto che la scaletta la fanno mezz'ora prima, quindi è una cosa bellissima. Anche per loro difficile. Come fate mezz'ora prima? No, dai, diciamo che di solito facciamo una prova pre-concerto. Ah, qualcosina fate allora. Se c'è il tempo. Se non siamo purtroppo d'estate a campi scout, a master o comunque corsi di formazione per violino, violoncello, se non abbiamo ferie, perché anche noi andiamo in ferie. Qualche volta. Cerchiamo magari di fare un'ipotetica scaletta. Poi quando ci troviamo lì magari c'è sempre qualche cambiamento, anzi di sicuro, ad esempio magari io guardo Veronica e Patrizia che sono le cantanti e quindi tengono un po', sicuramente tengono il palco, no la facciamo dopo quella canzone, non voglio farla, la facciamo dopo e poi non viene più fatta. Dimenticatoio. Non so se capita ad altri musicisti, però c'è sempre magari quella canzone quando, ma che a casa veniva benissimo, in saletta prove, non ci sono problemi, quando capita lì in momento... No, cambiamo subito. Una cosa che mi piace del nostro gruppo è che insomma siamo molto in sintonia, quindi ci guardiamo, ci cerchiamo di ascoltarci anche se non parliamo. Quindi. Avete sistemato democraticamente da dove venite? Che c'era questa diatriba. Sì. Allora, il paese da dove venite? Per Nuozzonovo Selice. Perfetto. Quindi per non scontentare nessuno. Esatto, bravissimo. Vi stanno ascoltando i vostri concittadini allora? Ma certo. Speriamo, sì. No, a casa mia di sicuro. Bene. A casa mia non si prende neanche. Col podcast la risenterai. Sì, ma anche in streaming. Anche in streaming, esatto. Vi salutiamo anche chi ci sta ascoltando. Esatto. Ciao. Io volevo chiedervi, da quel 5 giugno che avete vinto il concerto adesso, siete le Giro di Là che hanno vinto il concorso o siete le Giro di Là? Siamo le Giro di Là. Cioè, non so se mi spiego cosa voglio dire, cioè, vi riconoscono perché avete vinto quel concorso? No. Oppure perché avete la vostra identità, la vostra anima, insomma? Per l'identità, l'anima. Avete raggiunto un po' di fama con quel disco, sì. Con quella canzone là? Comunque. Sì, un po' sì, sicuramente, perché comunque è una vetrina, è stata una vetrina. Anche il fatto di venire qui in radio, un'altra opportunità che bisogna... Esatto, l'intervista con Telechiara, sono tutte vetrine che bisogna cogliere l'occasione, non lasciarle... Poi comunque nel nostro contesto, così tra i vari paesini, che Monselice, Perlumia, Pozzonovo, Este, abbiamo suonato... che sono tutti i paesi in provincia di Padova. Sì, tutti i paesini, siamo... sì, tutti i paesini in provincia di Padova, facciamo le nostre date, magari per sentito dire o perché noi... andiamo lì a fare un giro una sera, approfittiamo e bisogna sempre lanciare il sasso, no? Quindi sì, noi suoniamo e se vi interessa, quindi molte volte funziona così. Potete dire a Fabio che ci dia una mano, anche in quel senso, che vi dia una mano, anzi, in quel senso lì. No, ci ha già aiutato, infatti la data che abbiamo fatto sabato scorso, lui aveva suonato con il suo gruppo due settimane prima e quindi... ci ha un po' spianato la strada. E magari voi avete fatto più gente di lui. No, no. Sto scherzando, Fabio, non me ne vede. Va bene, adesso cosa facciamo sentire adesso? Viva la vita. Viva la vita. Sempre, quindi John Bass rientra sempre in giro. No, viva la vita dei Coldplay. Ah, i Coldplay. Pensavo quella di John Bass, ma che non è niente. No? To rule the world, seas will rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets that I used to own. I used to roll dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd will sing. Now the old king that stands, only the king. One minute I had the key. Next to walls will close on me. Now I discovered that my cat so stand upon feet of a sand, feet of a sand. I enter and the bells are ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know Saint Peter will call my name. Never known his world, but that was when I ruled the world. It was a wild wind, blew down the doors to let me in. Shadow windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary's way. For my hair on a silver plate, just a puppet on the lonely street. Oh, who would I ever want to be king? Risen bells are ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionaries in a foreign theater. For some reason I can't explain, I know Saint Peter will call my name. Never known his world, that was when I ruled the world. Oh, missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know Saint Peter would call my name. Never noticed what, but that was when I ruled the world. Thank you. Maurizio. Sì, naturalmente preso dall'enfasi del Giro di là, ho parlato di un pezzo di John Baez, ma John Baez è grazie alla vita, è una piccola... Sempre la vita c'è. È sempre la vita c'è. In ogni caso, questi archi siano molto vicini ai Coldplay, anche i Coldplay un'altra volta usano gli archi. Sì, sì, soprattutto nell'Extended Play che avevano fatto. Sì, sì, in questa canzone lo usano particolarmente. Esattamente. Quindi abbiamo un attimo cercato di riproporlo un po' col violoncello. Esattamente. E avevo un'idea, Fabrizio, cosa dici? Un po' di... possono arrivare a fare un pezzo di David Guetta per archi? Cosa dici? Beh, si può scegliere tra David Guetta, poi c'è Bob Sinclair. Vedi che la Veronica lo conosce. Ah, sì? Sì, lo conosco, insomma, si sente ovunque. Quindi... Nelle classifiche c'è ovunque. Sì, anche qua. Piscio socia. Bene. Io volevo chiedere a Martina, quante ore di strumento al giorno ci fai tu? E questo vale anche per Veronica. Beh, posso dire che sia io che lei quest'estate siamo state impegnate con l'esame di ottavo nel conservatorio, che spiega per gli ignoranti come me cosa vuol dire. Per violino e violoncello sono 10 anni di studio, l'ottavo è l'ottavo anno, cioè l'esame prima del diploma, poi c'è il nono e il decimo anno che è il diploma. Quindi all'ottavo bisogna abbastanza sgobbare perché c'è un programma impegnativo, quindi sulle 5, 6, 7 ore al giorno quando si riesce. Insomma, quest'estate c'è stato tanto caldo, quindi quello vuol dire molto. E se no, siccome io sono anche all'università, quindi devo giostrare un po' quella e l'altro, quindi un po' si tirano le redini da una parte, un po' dall'altra, quindi... quando durante l'inverno le mie 2 ore le faccio sempre, e sono poche, molto poche, però le faccio intensamente, ecco, quello sì. Cioè non suono senza impegno, altrimenti non serve a niente, ovviamente. Ma lo fai a casa tua, da sola? Sì, sì, io lo faccio a casa mia, sì. Non hai uno studio dove andare? No. E questo lo stesso vale per te? Sì, vale per, sì, questo vale anche per me, solo che tipo quest'anno io ho fatto solo conservatorio, ne ho già abbastanza con l'ottavo e riuscivo a studiare 4-5 ore al giorno. Quest'estate c'è stato un calo, anche se all'ottavo fra un mese, però non sono riuscita a studiare, cioè 4 ore massimo al giorno, 3-4. E invece tipo fino all'anno scorso che andavo al liceo, praticamente non ero molto costante, però tipo, vabbè, il giorno prima della lezione suonavo anche 5 ore al giorno, no? Il giorno prima, tutto pieno. Invece in genere dipendeva, certe volte non riuscivo a toccare violino, invece altre 2 o 3 ore, dipende, non molta costanza, non riuscivo. Comunque dedicate comunque moltissimo della vostra giornata quotidiana. Sì, sì, sì. E invece Valentina con la chitarra? No, io è una chitarra amatoriale come nello sport. Però tu sei quella che dà un po' il tempo, no? Giusto? Sì. Sì, la ritmica. Sì, sì, ma senza Valentina si affloscia. Perché Valentina veramente ci dà proprio tanta carica. Io veramente mi diverto a sentirla, a guardarla, perché mi trasmette tanta energia, quindi. Mi emoziono. Sì, lei si emoziona parecchio, cioè è molto, è proprio dentro la musica, quello è il bello, è quello che... Infatti hai visto la maglietta, Hard Rock. No, diciamo che io non sono come loro, io quando ho tempo suono la chitarra, una chitarra un po' da autodidatta, non ho mai avuto... fisicamente non ho il tempo e mi basta così, ecco, diciamolo. Però ci do dentro sulla ritmica, cerco di... magari di fare una canzone con il ritmo tutto nostro, ad esempio gli Offspring, questo stoppato, questo non è semplice, cioè non è semplice, è semplice da fare, però magari non è così immediato da pensare, da ricreare la canzone. Certo, certo, è una cosa giusta, quindi sei la rocchettara della band. Sì, esatto, praticamente. Anche perché non avendo la batteria, una chitarra, cioè in questo, lo posso sostituire. Soprattutto nel nostro gruppo una chitarra acustica non avrebbe molto spazio. E quindi deve credo anche la batteria, sai, non, forse sarebbe un po' noi stonata. Ci dispiace, ma il batterista deve essere solo single, biondo e con gli occhi azzurri. Maurizio, tu non puoi andarci. Sto scherzando, no, è proprio una decisione nostra di non volere la sezione percussioni, ecco. E invece Patrizia e Veronica con le voci quante dedicate? Dipende, diciamo che anch'io sono un po' autodidatta, infatti credo che non so. È che canti solo sotto la doccia, vero? Spero. No, anche in giardino. Anche in giardino. No, scherzo. Sì, diciamo, quando ci sono dei pezzi particolari da provare, cerco di farlo ogni giorno. Però generalmente, non so, due volte alla settimana. Però, insomma, non tutti i giorni, ecco. Infatti, credo si senta. E Veronica? Beh, io sì, non è, cioè, mi piace cantare e canto a prescindere dai brani del giro di là, cioè nel senso che a casa molte volte mi prendo la chitarra e mi inizio magari a studiare inizialmente alcuni brani che mi potrebbero piacere e non ho questa costanza, ho la passione di farlo, quindi lo faccio insomma con molta verve, con molto grinta, insomma. E niente, insomma, costantemente no, però capita, però sì. Capita, sì. Sì, io e Veronica la voglio salutare se si può, certo. Salutiamo la nostra maestra di coro, Federica Baccaglini. Ciao Federica. Che anche prima del concorso abbiamo mandato una demo, Federica dici due o tre cose, cosa possiamo fare, quindi cantiamo in un coro una volta ogni due settimane così, ma la cosa bella è che ci divertiamo. E lei vi ha dato le dritte allora per... Eravamo un po' indecise su quale canzone portare, abbiamo scelto quella, poi lei comunque è molto molto brava e quindi abbiamo fatto sentire la nostra demo, giusto prima, ormai la demo era inviata al concorso, però nell'esecuzione di quella sera dovevamo fare un qualcosa di speciale, allora lei ci ha solo dato l'ok, ha detto va benissimo così. E infatti è andata benissimo, infatti. Vabbè, adesso con che verve ci fate ascoltare la prossima canzone? Siamo un giro di là? No, il giro di là lo teniamo alla fine. Quanto come abbiamo? Avete ancora un quarto d'ora circa. Quindi la descrizione di un attimo? Sì, sì, bella, descrizione di un attimo. Il tiro mancino è descrizione di un attimo. Blu Radio Veneto. Ok, ci siamo. Si stanno mettendo a posto. Arriviamo. Eccole. Cambiano e crolla la fortezza del mio debole per te, anche se non sei più sola, perché sola non sai stare e credi che dividersi la vita sia normale, ma la mia memoria scivola, mi ricordo limpida la trasmissione dei pensieri e la sensazione che in un attimo qualunque cosa pensassimo in due poteva succedere. E poi cos'è successo? Aspettami oppure dimenticami. Ci rivediamo adesso, dopo quasi 5 anni. Hai come sempre sei la descrizione di un attimo per me. Ai ai ai ai, come sempre sei un'emozione fortissima. Tip, tip, tip, tip, tip. tim tim tim tada tim tim tim tada tim tim tim tada tim tim tim tada tim tim tim tada tim tim tim tada. Mi hanno detto dei tuoi viaggi, mi hanno detto che stai male, che sei diventata pazza, ma io so che sei normale. Mi chiedi di partire adesso, perché i numeri e il futuro non ti fanno preoccupare. Vorrei poterti credere, sarebbe molto più facile rincontrarci nei pensieri, distesi come se fossimo sospesi ancora nell'attimo in cui poteva succedere. Aspettami, oppure dimenticami. Ci rivediamo presto, fra almeno altri 5 anni. Hai come sempre sei la descrizione di un attimo per me. Ai ai ai ai, emozione fortissima. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ai, ai, ai, ai, come sempre sei bellissima. Bellissima, vi lascio poco tempo per riposare perché ci fate subito la penultima che poi ci salutiamo. Va bene? Cosa ci fate ascoltare adesso? Le Giro di là, allora. La canzone no. Giro di là. Gli Offspring. Il loro pezzo più importante. Allora, il botto finale. Allora, questa è la canzone, finale. È la canzone che ha vinto il concorso 1-2-3 prova. Ok? Dobbiamo dire che quello del Tiro Mancino lui scrive in modo con una metrica molto difficile, non è mica semplice cantare i pezzi di Tiro Mancino, vero? È difficile stare. Esattamente, lui è un po' particolare come metrica. Ok, con gli Offspring. Si sta accordando la chitarra. Come con un concerto di David Guetta, cosa dici, Fabrizio? Ok? Was gonna make it big and I'll be beat. Whoa. Not an evil hills cracking torn. The kids are growing up and less on word. How can one lead the street? Swallow so many lights and see strong. Nothing free. Longing for is to be. Still it's hard to see. Fragile. Thank you. the chance when she really did. Whoa. He stands to door that couple of kids. Whoa. Mark lives on his gun old door. He play guitars, but a lot of pot. They committed suicide. Whoa. Brandon didn't die. What the hell is going on? Cruel is real reality. Strong, nothing free. Longing for. Radio Sera. Blu Radio Sera. E siamo giunti addirittura ad arrivo, direi. O sbaglio? Sì, abbiamo finito esattamente. 22 veramente 27. Bellissimo, cioè un grande trasporto con questo pezzo di Offspring. Ah, sì, ormai. Ho rivissuto io quella sera per voi. È stato bello rivedervi poi sul palco con quella emozione che avevate addosso, insomma. La prima volta un po' tese. La prima versione avete fatto, eravate emozionate, scatenate, assolutamente, esatto. Scatenate. Va bene, sì. Noi vi ringraziamo di aver partecipato questa serata. Grazie mille, grazie a voi. Velocemente, grazie. 30 secondi, se qualcuno volesse contattarvi, allora? Il nostro indirizzo Facebook, Giro di Là, senza l'accento, lì trova tutte le nostre info, le nostre date, può scriverci benissimo una mail se vuole. Benissimo. La mail è? La trova sempre attraverso Facebook. Ah, ok. Maurizio. Sì, ringrazio Fabrizio che ci ha concesso questa ora e mezza del suo spazio. Grazie, Fabrizio. Lasciamo lo spazio a Stefano. Stefano che è ritornato dalle ferie. Bentornato, Stefano. E riprende l'attività di Rockwave. Ci salutate. Bene. Con che canzone adesso? Sì, con il Giro di Là, che appunto caratterizza il nome del nostro gruppo. Ok. E Maurizio, noi ci rivediamo io e te giovedì. Sì, io ci rivediamo giovedì con te. Abbiamo Paolo Barillari, che è il Brit del musical We Will Rock You. Quindi abbiamo un big, insomma, che viene a trovarci giovedì prossimo. Sempre alle 21, qui dalle 21 alle 22:30. Sì, io ci sarò anche mercoledì con Gli Impossibili. E forse venerdì con un'altra band. E per il sottoscritto lunedì prossimo, okay. Sempre dall'ora 21. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Terminiamo con una canzone del Giro di Là, che si chiama Giro di Là. Grazie ancora a tutti voi, a Blu Radio Veneto. Ciao. Ciao. La malinconia, le onde come il mare, ti fa andare e poi tornare. Ti culla dolcemente la malinconia, si balla come un lento, la puoi stringere in silenzio e sentire tutto dentro. Sembra quasi la felicità, sembra quasi l'anima che va, sogno che si mischia alla Puoi scambiarla per tristezza, ma è solo l'anima che sa che anche myself in time of trouble, my Mary comes to me, speaking a word of wisdom, let it be. And in my hour darkness, she standing right in front of me, speaking a word of wisdom, let it be. Let it be. Migliore, senza andata né ritorno, senza destinazione, leggero nel vestito migliore, nella testa un po' di sole ed in bocca una canzone. Per tutte le volte che mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore. Per tutte le volte che mi chiedi scusa, scusa più non è, ma trovi sempre il modo di farmi sembrare simbolo del male. Tu sarai la forza mia, forza mia, la mia strada, il mio domani, il mio sole, la pioggia, il fuoco e l'acqua dove io mi tufferò. Tu sarai la forza mia, il mio gancio in mezzo al cielo, il colpo al cuore, all'improvviso dentro me. You're a good soldier, choose your battle, pick yourself up and dust again, pop your back in the saddle. You're a front line, everyone's watching, you got this in, we got in closer, this is over. The pressure is on, you feel it, but you got. Presentazioni: Veronica al violino, Valentina alla chitarra, Martina al violoncello, Veronica alla voce, Patrizia alla voce. This is the